fanno, cambio di mano, cambio di aspetti trattati, affrontati con il programma. Gli atti visitali noi li abbiamo affrontati, sono documenti, documenti d'archivio, in realtà li abbiamo affrontati come fonte storica e quindi sono stati analizzati e smontati tenendo presente queste esigenze, queste richieste. C'è una scheda archivistica, ci sono dei dati archivistici, speriamo che si possa utilizzare, l'idea è di dare qualche cosa utilizzabile anche in archivio, però ecco, non è un lavoro di inventariazione archivistica tecnico e approfondito come quello che hanno presentato per Venezia. Questo ha condizionato anche il modo di affrontarlo e di smontarlo, no? Si è parlato di 300 campi e i sì e no sono tantissimi perché si è fatta anche la scelta di non interpretare noi la fonte storica, ma di lasciare poi allo studioso l'interpretazione della fonte, e quindi per restare il più neutri possibile è sembrato che tutto sommato la scelta più corretta dovesse essere quella di indicare se si trattava, si affrontava un certo argomento o meno. Poi i dati sicuramente oggettivi come le persone o certe altre cose si sono dati, e vabbè, questo l'avete visto. L'altra cosa, la banca dati è appunto una banca dati che potenzialmente si può estendere all'infinito. Serve a raccogliere tutta una serie di informazioni che si possono estrarre al momento quando servono. E quindi non è finalizzata alla produzione di documenti cartacei, cioè si possono tirare fuori, ma non è questo lo scopo essenziale. È poter interrogare, a un certo punto uno ha un problema, cerca una certa cosa, va a controllare se sulle visite che sono state schedate in banca dati si possono trovare informazioni su quell'argomento. Per favorire queste ricerche sono state predisposte delle interrogazioni facilitate, molto semplici anche come compilazione, che sono appunto queste query guidate, a cui abbiamo dato nomi un pochino fantasiosi, ma insomma rispecchiano anche la complessità e l'articolazione della banca dati. Una query madre, si vede, no? Una query madre che è la query generale che dà un po' il quadro della visita o delle visite, le informazioni essenziali, una query che illustra i documenti sussidiari, una query che fa riferimento soprattutto ai luoghi, consultabile a video, perché se poi si vuole il prodotto cartaceo bisogna fare un'altra operazione di export. I visitatori, l'archivio, bibliografia e le varie unità visitali. Vediamo quelle legate principalmente a queste prime tre schede, alle schede principali. Ecco, purtroppo non si vede, però in queste righe che poi si possono compilare, si sceglie se compilare o meno i campi. È possibile far funzionare l'interrogazione anche senza compilare nulla e il programma dà in risposta tutto quello che ha. In pratica, come dire, dammi tutto. Altrimenti si può scegliere se si vuole fare un'interrogazione centrando l'attenzione sulla diocesi all'epoca della visita. Oppure, in questa seconda riga, il periodo del secolo. Si può dare un secolo oppure un arco di tempo compreso fra due secoli, o date precise, una data precisa oppure, non so, dal 1750 al 1752, possiamo fare anche una cosa del genere, oppure il vescovo, qua il nome del vescovo, sapere interrogare sull'estensione generale, sulla città o sul contenuto. Si può fare un tentativo qua, facciamo, non so, 1750 fino al 1799, voglio sapere però non tutto ma solo le visite che sono di estensione generale, cioè che interessano tutta la diocesi. Il programma molto velocemente mi dà questa risposta e mi dice che nella diocesi di Trento è stata fatta una visita nel 766, il vescovo era Cristoforo Sizio del Noris ed è una visita appunto generale, perché io l'ho chiesta generale, potevo chiedere altro tipo, avere il quadro di altro genere. Insomma, questo è un esempio. I campi che si indicano come filtro, quindi come selezione delle informazioni che si ottengono in risposta, si possono compilare in modo integrato, cioè se ne possono compilare due o tre, ovviamente si restringe sempre la... sì, appunto, se invece non si compilano viene fuori tutto. E così andiamo avanti anche per le altre. I documenti sussidiari, se... uno chiede, cioè se si vuole sapere tipo documento, si può chiedere i documenti di una visita e quindi comprare l'elenco di tutte le tipologie, non tutti i documenti, tutte le tipologie di documenti sussidiari che sono collegati a quella visita, oppure si possono fare interrogazioni più specifiche e quindi se io voglio sapere le suppliche, indico semplicemente suppliche, non serve che indichi altro, mi dà tutte le suppliche che sono state registrate in tutte le visite del Trentino. È un po'... si è bloccata la cosa. No, no, no, bisogna avere pazienza. Sì, perché le suppliche sono... cioè, tutte le visite del Trentino vuol dire avere una quantità... E infatti ho schiacciato troppe volte. Guarda che lo sto ancora facendo, non rischiacciare. Ecco, poi il problema delle strutture informatiche è un po' questo, che uno è abituato con il proprio computer, ne affronta un altro e vengono fuori dei problemi. Comunque, questa è una soluzione, sì, se no posso... no, sta lavorando, eccole. Va bene, usciamo dall'applicazione altrimenti diventa un caos. E la stessa cosa per altri argomenti. È notorio, ad esempio, se vado a interrogare sui visitatori, si sa che a Trento ci sono stati i Madruzzo. Se provo a interrogare scopro che i visitatori non sono stati solo i vescovi, ma ce n'è un altro, adesso vi dico questo perché ho fatto la prova, ma in questo modo si possono tentare di scoprire se alcuni personaggi che hanno lavorato, che hanno operato in diocesi limitrofe o comunque in una certa area sono intervenuti nelle visite a quale titolo, oppure si scoprono. Si può avere il quadro dei visitatori che hanno lavorato in una certa, che hanno operato in una certa visita, no? Quindi Ludovico, Carlo Gaudenzio e Carlo Emanuele, vescovi di Trento, ma abbiamo anche una Liprando, Carlo, e qui si scopre che Carlo Gaudenzio ha fatto una visita come coadiutore. Ecco, c'è una serie di informazioni che sono funzionali poi ad un'interpretazione ovviamente storica delle cose. Beh, forse visto che mi fanno segno che di minuti non ne ho più, altri 5 minuti ci fai vedere solo la pagina. Qui ormai siamo mi manca il trackball. Chi conosce portatili sa che cos'è il trackball. Beh, facciamo vedere una cosa che riguarda l'archivio. Per l'archivio si può scegliere il codice di visita, la diocesi o la data. Diamo un codice a caso, tanto per vedere quali sono le informazioni che abbiamo ritenuto importanti, essenziali per una persona che affronta l'archivio, e vediamo che la diocesi, la visita, l'archivio, cioè dove si trova la visita pastorale, la segnatura, quindi la collocazione archivistica in modo che sia facilmente reperibile, il numero dei volumi, se è una visita scomposta, perché questo ovviamente impone un lavoro maggiore, e poi se è dotata di indici. Ecco, no? queste cose qui. Vediamo un altro esempio per quanto riguarda le... le unità visitali, possiamo tutte le confraternite che ci sono. Qui verrà una cosa che richiede un 30 o 40 secondi, anche magari un minuto di elaborazione. Nel discorso gerarchico, questo discorso delle unità visitali, come diceva Cecilia, è data la descrizione generale delle visite, si è scelto di fare una campionatura degli enti ecclesiastici che sono stati visitati nelle visite. Tra le varie tipologie, le chiese che comprendono le chiese parrocchiali e tutto quanto, ci sono le confraternite. Sono in numero, non sono tutte, ma sono in numero significativo per offrire già delle indicazioni, per esempio sullo stile di visita, su quali erano gli argomenti che il visitatore indagava. Dipende, ecco, qui abbiamo il quadro, no? Il codice visita, in modo che sia possibile poi capire anche la data, la diocesi ovviamente è sempre solo Trento, il codice dell'unità visitale per poterla individuare poi all'interno della banca dati per non perderla, il sapere se è collegato direttamente alla visita o fa capo giuridicamente, perché lo dicono i documenti, fa capo ad un altro ente, una qualche parrocchia, quindi il codice del padre, la tipologia, la confraternita, poi la, ho perso la freccetta, la sede, l'ubicazione archivistica, in modo che se uno è interessato a quella confraternita, a quell'argomento, la va a trovare subito in archivio, prende il volume, è indicata anche la carta dove si trova, il nome dell'ente, cioè quale confraternita è, se appartiene a un qualche ordine religioso, e basta, perché poi questi sono i campi fondamentali. Ecco, questa è un pochino la situazione. Poi ci sarebbero anche le cosiddette query esperte, cioè non sono così facili da fare, però richiedono un pochino più tempo, non so se è il caso di farlo. Con una query esperta, ad esempio, si possono richiedere le informazioni archivistiche che qui non compaiono, che sono, non so, sapere se è microfilmata, se ci sono altri, tutta una serie di altre cose. Interrogazione. Proviamo a vediamo che c'è, era già preparata. Queste query, queste interrogazioni particolari che richiedono anche una conoscenza un po' della struttura di un certo tipo, si possono lasciare in memoria. Quindi la query archivio, io la richiamo in memoria, ecco, mi dà subito un problema. Boh, dice che c'è un errore, ma non vuol dire niente perché poi compare. Ah, non l'ha memorizzata tutta, ecco perché c'è un errore. È saltato in fase di impostazione, è saltato una. Ho dovuto interrompere il lavoro e non l'ha fatto. E si esegue la selezione con questo tasto, si esegue la selezione e dà poi la risposta. Purtroppo qui non ci sono i campi selezionati, in quest'area non ci sono i campi selezionati, quindi darebbe un bianco. Okay, l'ho fatto prima, ma non. Bene. Non l'ho completato.